lei, lei, che rabbia mi fa. Lei, crede in quello che fa. E camminando la vedo sui muri di questa città. Lei, ride per pubblicità. Non è facile per me. No, no, no. Una donna come te. No, no, no. Io vorrei sentirti mia, solo mia. E non di tutti in ogni via. Lei con la mano mi invita lontano da questa città. Quasi felice di dare uno sfogo alla sua vanità. Non è facile per me. No, no, no. Una donna come te. No, no, no. Io vorrei averti mia, solo mia. Ma non so neanche chi tu sia. E camminando la vedo sui muri di questa città. Quasi felice di dare uno sfogo alla sua vanità. Quanti amori. Lei con tutto di fuori. Lei che rabbia mi fa. Lei crede in quello che fa. E camminando la vedo sui muri di questa città. Lei ride per pubblicità. Non è facile per me. No, no, no. Una donna come te. No, no, no. Io vorrei sentirti mia, solo mia. E non di tutti in ogni via. Lei con la mano mi invita lontano da questa città. Quasi felice di dare uno sfogo alla sua vanità.